Componimento 177° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Mille piagge in un giorno e mille rivi, mostrato m'ha per la famosa Ardenna, amor ch'a suoi le piante e i cori impenna, per farli al terzo ciel volando ir vivi. Dolce m'è sol senz'arme esser stato ivi, dove armato fiar Marte e non accenna, quasi senza governo e senza antenna, legno in mar pien di penser gravi e schivi. Pur giunto al fin della giornata oscura, rimembrando ond'io vegno e con quai piume, sento di troppo ardir nascer paura. Ma il bel paese e il dilettoso fiume con serena accoglienza rassecura il cor già volto ov'abita il suo lume. Fine del componimento.